Buongiorno, questa era la campanella e oggi è una bella giornatella. Io sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Tiè. Ciao Gigi. Non la puota. Ascolto ogni sera il tuo cammino perché mi entra dentro. E mi fa ritrovare la gioia di vivere. Dade, da Vicenza. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Un saluto ai DJ Raffa Giusti e Sergio Flash. Bordenò da Rivalta. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Auguri di buon compleanno ad Andrea di Perignano, in provincia di Pisa. M2O. Ciao Gigi, sono Elisa. Sto camminando con te, te, te, te, te, te, te. Maestro, sei stato grande a Latina. È vero, è vero. Saluti dagli amici di Lariano. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Domenica era un giorno speciale, perché era il compleanno del nostro Gigi. Yippee! Auguri, anche se in ritardo. Eli, da Genova. Hai tempo? Ciao, sono l'inventore del lento violento. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22. Gigi D'Agostino suona Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci la mano. Infoline 392-822-5259. Un saluto e tanti auguri al poeta della dance, perché domenica era il suo compleanno. Tanti auguri Gigi, ci vediamo a Rimini a Capodanno. Ok. Fiore 88. Sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Sono Flavio da Milano. Puoi dire alla mia ragazza Monica, che è qui in macchina con me, che la amo da morire. Certo. Siamo in macchina verso il Giulio di Torino. Salutiamo la prima e la seconda A. Brenda e Marco di Chivasso. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo peperoncino. Fare i migliori auguri, anche se in ritardo, al personaggio del cammino. Continua a suonare, perché io ti seguo. Non fermarti mai, perché potrei perdermi. Cri da buia. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Dedicato a quella stronza di mia moglie Laura. Non mi merita. Ecco. Andrea da Arezzo. Cammino di Gigi D'Agostino, la musica vendetta. Sono Michele da Brescia. Mi complimento col mio amico Joe che ieri ha preso la patente. Gigi, grazie perché mi fai ballare. Ballare, ballare, ballare, ballare. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino te caccia via lo spirito maligno. Gigi, fai gli auguri al mio Massi, un figo di 40 anni. Sì, sì. Venerdì 22 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Torino, discoteca Patio Club. Ciao Gigi, sono Mario da Roma. Il primo settembre 2007 mi sposo con la donna della mia vita. Il mio sogno sarebbe che tu venissi a suonare la serenata. Pensaci. Un saluto a tutti voi. Ale da Cusago. Un saluto a te, Gigi D'Agostino. Fammi una mixata, va. Per piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Gigi, è bellissimo quando parli. Sì, sì. e poi hai delle cuffie che spaccano. Ciao a tutti da Enrica di Bologna. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Daniele 88 da Pistoia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Grazie per aver devastato i nostri cuori a Latina. Volevo dedicarti The Riddle. Per me significa tantissimo. David 85 da Velletri. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Volevo dedicare una canzone ad Alessio e Riccardo, i due giovani della Juventus che ci hanno lasciato. Giovanni da Torino. Ho fatto un sogno di quelli strani, guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che

volevo dedicare solo in te alla mia dolcissima Lara, sperando che il nostro sogno non finisca mai. Johnny Bizzarro. Gigi, sono Ilaria da Livorno. Ti chiedo di farmi volare con Fly. La dedico al mio amore Alessandro. Grazie a lui riesco a volare con le ali dell'amore. Ti amo Alessandro. Viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Quel 17 dicembre 1967, quella vita non era impazzita, perché ha messo in vita il mio maestro. Auguri e grazie Gigi per le emozioni che trasmetti. Annalisa da Lecco, ti dedico semplicemente. Perplessità. Mando la pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Ciao Gigi, sono Andrea. Ti seguo sempre alla radio e a volte anche dal vivo. Vorrei dedicare lo sbaglio a Martina. Ok. A San Marco il 28. Ci sarò. Bravo. Volevo dedicare lo sbaglio a Chiara e dirle che la amo. Mirko da Corogna. Sono Cico di Torino. Volevo dedicare lo sbaglio ad Elisa, perché con lei ho fatto un grosso sbaglio, quello di innamorarmi di lei. Eli, ti adoro. E se io ti chiedessi lo sbaglio? Letizia da Perugia. E se Gigi adesso te lo suona? Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita.

cammino di Gigi D'Agostino vi abbraccio forte. Ci sentiamo domani. Grazie.